Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, i temi di questa giornata economico-finanziaria. La prima iniziativa europea congiunta si è vista oggi a Bruxelles, riguarda il settore auto. Non si tratta di incentivi o soldi concreti, ma di un coordinamento tra le iniziative europee a sostegno del settore auto e soprattutto anche la richiesta di un incontro, chiamiamolo così, confronto con l'amministrazione Obama appena si sarà insediata, per evitare appunto che gli aiuti americani al settore creino una concorrenza così negativa o dannosa anche per il settore europeo. Resta sullo sfondo un diverso modello europeo rispetto a quello americano. L'America continua a, e lo ha fatto ieri anche Barack Obama, annunciare piani da centinaia di miliardi di dollari a sostegno dell'economia, delle famiglie, delle imprese. L'Europa si continua a muovere in ordine più sparso, al di là di questa iniziativa che, ripeto, può essere considerata sul fronte economico la prima in cui si cerca un coordinamento tra aiuti dei vari paesi. Questo il giorno dopo la decisione della Banca Centrale Europea, tassi mai così bassi da un secolo in Europa e quindi anche da quando esiste l'euro, il che fa il paio con la Gran Bretagna, che ha visto i tassi scendere a livello più basso dal 1694, da quando esiste la Bank of England, e con gli Stati Uniti, mai così bassi i tassi di interesse anche in America. Le borse oggi chiudono la settimana con un rimbalzo, dopo appunto una ottava di contrattazione in cui in sostanza si sono mangiate tutti i guadagni di inizio anno. Adesso il MIB guadagna l'1,67%, l'S&P MIB il 2%, Parigi più 1,2%, Francoforte più 1,3%, Londra più 2%, Dow Jones più 0,80%, l'America guadagna lo 0,4%, bene questa mattina anche le borse asiatiche. Poco mosso l'euro, che si mantiene a quota 1,30, 1,32 per la precisione, sul dollaro, così come ci vogliono 90 pence, 89 per la precisione, per comprare un euro in questo momento. Ancora in generale i titoli più penalizzati oggi sono ancora alcuni bancari, anche se non in maniera così pesante come nelle scorse sedute. Nel caso specifico la Banca Popolare di Milano torna a 4 euro per azione, perde il 2,7, così come Monte dei Paschi torna a 1,3 euro per azione, perde il 2,2. Il peggior titolo è Fastweb, più meno 5,9%, e Buzzi Unice meno 3,6%. Negativa anche Fiat, meno 3,4%, ieri dati del settore europeo. Chiaramente il settore auto resta in difficoltà, alcuni sostengono profonda difficoltà. E chi va bene? Prysmian guadagna oltre il 10%, Generali il 4,5% e si riavvicina a 18 euro per azione, Unicredito più 4%, Fondiaria più 3,80%, Tenaris più 3,4%, Eni più 3%, Intesa più 2,4%, Mediobanca più 2,4%, Alleanza più 2%, come Finmeccanica. Ebbene anche Mediolanum più 1,7%, Atlantia più 1,6%. Ultima cifra prima delle notizie in breve, quella per i vostri messaggi: 349-238-6666. E allora, al di là dell'Europa e anche di alcune iniziative sulle banche americane, di cui parleremo più avanti, oggi una buona notizia riguarda di nuovo l'Euribor. È sceso al 2,45% il tasso interbancario a 3 mesi, quello che usano le banche per prestarsi soldi, su cui si calcolano tutti i prestiti a tasso variabile, e siamo ai minimi dal dicembre del 2005. Tiene banco, anche se diciamo sempre in maniera più sfumata, il conflitto diplomatico economico tra Russia e Ucraina. Oggi il presidente russo, che domani incontrerà Mosca all'interno del summit promosso sul gas e tutti i paesi consumatori europei. Dicevo, Medvedev ha detto che l'attuale conflitto sul transito del gas esce dal quadro delle relazioni bilaterali tra Kiev e Mosca e non può essere risolto che con la partecipazione degli europei, ossia di chi poi viene danneggiato da questo conflitto. Il costo della guerra con l'Ucraina, così ha detto il vicepresidente di Gazprom Medvedev, che è un altro Medvedev, si chiama Alexander e non Dimitri, è per ora stato di $1.1 miliardi di mancati introiti per Gazprom. Le banche americane, si diceva, di nuovo sotto pressione. Perché? Perché la Bank of America ha chiuso il quarto trimestre con conti in rosso per la prima volta da 17 anni, dal 1991, ha tagliato il dividendo. Nel quarto trimestre Bank of America ha riportato una perdita netta di $1.80 miliardi. L'anno scorso invece, nello stesso periodo, c'era un utile di $270 milioni. Una perdita comunque inferiore alle stime degli analisti, che arrivavano a ipotizzare addirittura 3,6 miliardi. Il dividendo viene ridotto drasticamente da 32 centesimi di dollaro l'operazione a un centesimo. Questi risultati però non includono tutte le perdite di Merrill Lynch, che la Bank of America si è da poco comprata. Perdite che complessivamente ammontano a $15 miliardi. Però la Bank of America ha ricevuto oggi dal Dipartimento americano $20 miliardi più $118 miliardi di garanzie su tutti gli asset di Merrill Lynch per reggere il colpo dell'assorbimento. Va invece, come previsto, il bilancio di Citigroup, $8.290 milioni di perdita, e tra l'altro per affrontare questo momento difficile Citigroup ha deciso di dividersi in due sezioni distinte, una destinata alla cosiddetta Universal Banking, l'altra destinata al brokeraggio. Ricordo che Citigroup vuole anche ridurre di un terzo l'organico e quindi su 300.000 dipendenti purtroppo 100.000 potrebbero risultare in esubero. Inflazione ferma negli Stati Uniti, lo 0,1%, praticamente nel 2008 la crescita dei prezzi al consumo in America è stata la più bassa dal 1954. Questa è una buona notizia, soprattutto perché anche i tassi sono scesi moltissimo negli ultimi mesi. Addirittura a dicembre c'è una deflazione, -0,7%. Va peggio delle stime invece in America la produzione industriale, -2%. E poi però ci sono casi singolari. Insomma, nel periodo natalizio in America, dove le difficoltà non sono state poche, c'è un settore come quello dei videogiochi che ha visto superare per la prima volta il tetto dei $5 miliardi di fatturato. Alcuni lo legano anche, come sempre in periodi di crisi e di difficoltà, alla speranza che può arrivare dal gioco d'azzardo o videogioco che sia. Moody's non si aspetta di modificare il voto sull'Italia, il rating al debito pubblico italiano. Già martedì scorso Standard & Poor's aveva confermato il voto sul nostro debito, lasciando anche invariato l'outlook, cioè stabile. Moody's invece sul settore auto ha messo sotto osservazione Fiat e c'è chi già paventa un possibile declassamento del debito Fiat. Nel settore auto, o del settore auto, parliamo subito, perché ieri sono usciti anche i dati complessivi dell'Europa e oggi si sono riuniti a Bruxelles insieme alla Commissione Europea i 27 ministri europei dell'industria per arrivare a quello che è stato un primo tentativo di accordo. Primo tentativo, dicevamo, perché? Perché a sostegno del settore auto arriva in sostanza un via libera europeo. attraverso incentivi alla rottamazione e altre misure di tipo fiscale, ma tutto nell'ambito di un'azione coordinata a livello europeo che si concentri soprattutto sullo sviluppo delle nuove tecnologie meno inquinanti. Lo abbiamo già detto, però ci piace ricordarlo: se da questa crisi uscirà un'industria dell'auto in America ma anche in Europa più attenta ai veicoli che abbiano meno emissioni, poi vediamo come ci si arriverà, c'è chi parla di idrogeno, c'è chi parla di utilizzo dell'energia elettrica, ma insomma se questo servirà all'industria dell'auto mondiale per darsi nuovi obiettivi, a mio avviso fra qualche anno potremo anche commentare questo aspetto come uno degli elementi più positivi di questa crisi economico-finanziaria. Tant'è che anche il piano di aiuti europei vede una parte forte, quasi 4 miliardi di incentivi per chi, per le industrie che svilupperanno modelli cosiddetti verdi. Vediamo che cosa hanno deciso intanto i ministri europei. Sentiamo allora, la Banca Europea degli Investimenti ha già detto di essere pronta a aumentare i finanziamenti, tra l'altro la BEI si era già impegnata a dicembre per 15 miliardi di euro complessivi a favore delle imprese più colpite dalla crisi, e di cui 4 miliardi per il settore auto e le case automobilistiche, appunto, che investiranno in progetti verdi. L'Unione Europea ha chiesto anche un dialogo con Obama, e comunque proprio il tema degli aiuti americani che rischiano di creare concorrenza sgradita, se non scorretta, all'Europa è stato al centro degli incontri, come ha ricordato il ministro alle attività produttive Claudio Scajola. La necessità di una politica di armonizzazione sugli aiuti al settore automobilistico. La condivisione della urgenza di tutelare questo importante settore manifatturiero, l'impegno che nel prossimo Consiglio Competitività vengano formulate proposte, e da subito l'impegno della Banca Europea di Investimenti di alzare significativamente, fino al raddoppio, il credito alle imprese automobilistiche, con un finanziamento ai singoli progetti di innovazione. E sempre il ministro Scajola, per quello che riguarda le iniziative italiane, ha detto che il governo sta studiando incentivi per l'acquisto di automobili che più inquinano, quelli ultimi sono scaduti il 31 dicembre, anche alla luce di quello che faranno e stanno facendo gli altri paesi europei. Noi stiamo valutando proprio in questi giorni un intervento di 200 milioni di euro sulla innovazione, sulla mobilità sostenibile, che con il contributo delle imprese che hanno partecipato al bando muove un investimento complessivo di 600 milioni di euro nel settore dell'innovazione. Quindi è un nostro intervento. Sulla parte relativa, se questa è la sua domanda, al rinnovo del parco macchine collegato alle emissioni, che è scaduto il 31 dicembre di questo mese, noi abbiamo sostenuto che vogliamo muovervi in questa armonizzazione, quindi vedremo con l'Europa quali saranno gli strumenti ritenuti compatibili fra paese e paese. Allora, Enrico Brivio, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera. E buonasera anche all'economista che insegna alla Bocconi di Milano e noto studioso della Fiat e del settore auto, professor Giuseppe Berta, buonasera anche a lei. Buonasera. Allora Enrico, aggiornaci meglio di quanto non abbia fatto io su questo incontro e anche sulla sua valenza tra virgolette politica, perché a noi è sembrato che per la prima volta ci sia stato un tentativo di coordinare iniziative di politica economica e anche fiscale europee che finora sono andate assolutamente in ordine sparso, cioè la Germania ha fatto 2.500 euro di incentivi, comunque ha un piano da 80 miliardi complessivi per il settore economico, la Francia 1.000 euro di incentivi alla rottamazione, la Spagna 800 milioni di aiuti al settore, in Svezia 2 miliardi e mezzo a favore di Saab e Volvo, ma insomma ogni paese europeo ha fatto quello che ha voluto. Oggi si è cercato di avere un piano un po' più coordinato? Sì, il tentativo è questo, di cercare di avere un coordinamento e soprattutto di non avere interventi che provocano distorsione sul mercato, cioè vadano ad avvantaggiare magari le case di alcuni paesi rispetto ad altri, creando ulteriori perturbazioni in un mercato già colpito da un forte tracollo. Diciamo che per questo il vicepresidente della Commissione Günther Verheugen ha convocato oggi tutti i ministri dell'economia e c'è un stato in sostanza un accordo su alcune linee, cioè sul mantenersi su interventi, prorottamazioni, incentivi fiscali e incentivi soprattutto per la produzione di auto tecnologicamente meno inquinanti e che consumino meno, il tutto appunto con una regia, se vogliamo, di Bruxelles, che dovrà accertarsi che queste misure non provochino ulteriori distorsioni sul mercato, anche se ovviamente si rimane un po' sul piano nazionale tuttora, insomma, con questi piani, escludendo però gli interventi europei che invece sono veramente a livello europeo. Si tratta dei 4 miliardi che avete ricordato che andranno al settore dell'auto per investimenti in tecnologie pulite e anche in impianti che possono produrre macchine meno inquinanti e più efficienti, e un importo che comunque salirà, Scajola parlava di 8 miliardi e Verheugen anche ha parlato di 10 miliardi, insomma dipenderà un po' anche dai progetti che le case automobilistiche saranno in grado di presentare. E tu giustamente ricordavi che poi il braccio finanziario dell'Europa in questo settore, in questo caso, è la Banca Europea degli Investimenti. Altra domanda, mi sembra che l'accento sul fronte delle dichiarazioni politiche sia stato sì su un coordinamento negli incentivi, ma anche sul pericolo Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti hanno già dato 14 miliardi, per carità, a marzo bisognerà verificare, sono un prestito che potrebbe essere elevato, ma insomma voglio vederlo poi Obama levare 14 miliardi all'industria dell'auto di Detroit con 3 milioni di dipendenti tra indotto e attività proprie. Il timore qual è? Che l'America vada a far concorrenza, insomma, sgradita? Sì, questo, diciamo, tra le righe anche il timore che c'è da parte dei ministri europei che quella distorsione che non si vuole a livello europeo si possa invece prendere forma a livello internazionale con gli Stati Uniti che pompano aiuti ingenti alla loro industria e quindi a svantaggio delle concorrenti europee. Diciamo che questa è una preoccupazione che è rimasta abbastanza chiara, è stata anche annunciata e credo che proprio per questo ci sia un po' l'impegno a mantenere le linee sugli aiuti di Stato, un'applicazione flessibile di queste linee, insomma di questi orientamenti attuali dell'Europa, proprio per non svantaggiare eccessivamente le aziende europee, cioè laddove fosse necessario, insomma, chiudere un occhio e ammettere anche un sostegno per le aziende europee qualora appunto sia coordinato e non troppo distorsivo all'interno del mercato europeo, però c'è la consapevolezza che gli americani stanno facendo qualcosa, che non si può rimanere con le mani in mano. Chissà se questo primo tentativo di coordinamento europeo è dovuto anche al fatto che l'industria dell'auto in Germania sia un'industria fondamentale, lo dico perché tutti i tentativi precedenti di avere piani coordinati sulle banche, sui settori industriali hanno visto il secco no, il veto, il mettersi di traverso proprio della Germania. Questa volta, forse perché toccata in maniera più forte, la Germania ha detto di sì. Professor Berta, ragioniamo un po' più in prospettiva, perché lei ne ha scritto recentemente anche sulla Stampa, di cui è editorialista. Qui si sta ridefinendo una visione nuova dell'economia, della finanza, poi nel caso specifico anche del settore auto, perché per carità la situazione finanziaria e economica ha aggravato il malato aveva già una malattia in corso, in decorso. Lei il cosa ritiene? È un malato molto grave, soprattutto negli Stati Uniti d'America. Voglio dire, ciò che è successo con il lungo conflitto che c'è stato sul problema degli aiuti a Detroit ha rivelato come in America non ci sia affatto un'attitudine univoca verso i problemi dell'industria automobilistica, nel senso che mentre i democratici pensano che il sistema di Detroit vada tutto sommato difeso e salvaguardato, ancorché riorganizzato e ammodernato, i repubblicani pensano che quel modello industriale sia troppo oneroso per essere mantenuto. In realtà si confrontano due visioni opposte dello sviluppo industriale dell'auto. Da una parte c'è quello di Detroit, gravato da alti costi legati al consenso e alla contrattazione sindacale. Dall'altra parte c'è c'è la condizione dell'auto negli stati emergenti del sud, dove il costo del lavoro è molto più basso, non c'è la contrattazione sindacale di fatto, e perciò ci sono condizioni di vantaggio che hanno favorito l'insediamento dei concorrenti dell'industria americana. I repubblicani pensano che sia verso questo modello che ci si debba indirizzare, per questo hanno a lungo osteggiato gli aiuti a Detroit, anche con pesanti battaglie parlamentari. È chiaro perciò che in America non c'è ancora un modello definito di industria dell'auto che sta emergendo da questa crisi. Certamente tutto lascia pensare che ci sia una riorganizzazione nei confronti dell'industria americana tradizionale, cioè che le Big Three non possono sussistere come entità differenziate e che debbano essere accorpate in un nuovo soggetto. Un discorso analogo a quello che per l'Europa sta facendo anche Sergio Marchionne in Italia. Quando dice alla fine a livello mondiale ne resteranno solo sei, quindi due europei, due americani e due asiatici, una cosa del genere. Pensa che ci si debba essere, io credo, un nuovo polo dell'industria dell'auto che veda insieme una collaborazione di industria europea ma anche di industria dei mercati emergenti, perché il tipo di auto verso cui ci si sta indirizzando, cioè la celebre vettura low cost, no? Quelle essenziali, quelle che hanno un bassissimo costo e hanno però un grado molto più elevato di standardizzazione, rovesciando la tendenza che fin qui si è affermata centrata sulla caratterizzazione del prodotto. Ecco, tutto questo non possa essere fatto senza l'apporto di produttori asiatici, Cina, India in testa. Allora, nel ringraziare Enrico Brivio in collegamento con noi da Bruxelles, chiedo a lei invece, professor Berta, qualche minuto ancora di pazienza, abbiamo il meteo e la pubblicità, perché poi vorrei capire se, come abbiamo detto in apertura, da questa crisi pesantissima per l'auto in particolar modo, da cui probabilmente uscirà un mondo diverso rispetto a quello che conosciamo quanto a soggetti, però per noi cittadini, consumatori, automobilisti, non possa anche nascere un modello migliore. Mi spiego, il vantaggio di auto verdi non è solo un vantaggio, diciamo, di carattere ecologico, c'è meno inquinamento, c'è anche un vantaggio geopolitico, uno Stato è meno dipendente dal petrolio rispetto a quanto non avvenga adesso, cioè non ci possa essere anche un percorso virtuoso in questa crisi. 17:33 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo che alcuni di voi contestano il fatto che le auto possano diventare ecologiche, un linguaggio da incompetenti, ma insomma a noi interessa il tema se questa industria dell'auto, oltre che ristrutturarsi come numero di soggetti, perché come il professor Berta ricordava, molti e lo stesso Marchionne ritengono che alla fine resteranno due o tre soggetti in Europa, uno o due soggetti in America, due soggetti più o meno, due produttori in Asia, se non possa uscire un percorso virtuoso da questa crisi. Professor Berta, lei ci crede? Credo in base a questo ragionamento. Oggi nel mondo circolano 700 milioni di autovetture. C'è una stima che mi sembra abbia formulato l'Economist che dice che nel 2050, a metà del secolo, i veicoli potrebbero diventare addirittura 3 miliardi. È chiaro che se fossero veicoli simili a quelli in circolazione oggi, noi avremmo creato una immensa, una colossale camera a gas in cui tutti finiremmo col morire. Dunque è inevitabile, se noi pensiamo a un'espansione dell'automobile, questa espansione non può che prevedere dei motori diversi da quelli che oggi vengono adottati. Mi sembra perciò che se dovessi, dalla crisi attuale, indicare due caratteristiche destinate a emergere nel tempo, Una, la prima è quella che ho già detto, vetture low cost, vetture caratterizzate dalla sobrietà e da un grado di essenzialità che rovescia, cioè che rovescia i criteri precedenti fondati sulla individualizzazione e la personalizzazione massima del prodotto. In secondo luogo, queste vetture low cost dovrebbero avere la necessità di combinarsi con dei motori ecologici, ecocompatibili. Allora, l'auto elettrica è certamente una delle soluzioni possibili. Un'altra è, come sappiamo, l'auto idrogeno, il vettore idrogeno. La General Motors, non dimentichiamolo, ha fatto un patto vari anni fa col governo della Cina popolare, la Repubblica Popolare Cinese, perché se si arrivasse a questa soluzione e in termini economicamente sostenibili, bene, le vetture di questo tipo sarebbero prodotte in Cina. Ecco, sono segnali secondo me importanti che non possiamo trascurare, ma è impossibile, io ritengo, pensare a un'espansione della massa di automobili in circolazione su scala mondiale senza pensare a una ridefinizione ecologica delle autovetture. Sono totalmente d'accordo con lei, anche perché abbiamo visto cosa è successo per in alcuni mesi in cui il petrolio è arrivato a 140, 144 o 100 dollari. Voglio dire, mi dispiace per i paesi produttori, ma è impensabile che si possa ragionare su questi livelli di prezzo in maniera come ragionamento sullo sviluppo. Quindi auto più low cost, più sobrie, e attenzione, questa sobrietà Obama l'ha usata 30 volte nel suo discorso di investitura, vedremo cosa farà il 20 di gennaio, addirittura anche la moda va verso una maggiore sobrietà negli stili, e secondo me sarà il tratto che uscirà da queste crisi. E poi motori maggiormente o completamente compatibili. Grazie anche a Giuseppe Berta, economista della Bocconi di Milano, editorialista della Stampa. Adesso subito sui mercati, ultima seduta, si interrompe una serie di sedute tutte negative, e i mercati hanno chiuso con una media tra il mezzo punto e il punto e mezzo percentuale di rialzo. Parigi più 0,70, Francoforte più 0,6, Londra più 0,6, l'America più 0,2% adesso sul Dow Jones e meno 0,3% sul Nasdaq, euro a quota 1,32, per cui poco mosso, petrolio in leggero rialzo, ma siamo a 35,8 dollari al barile, un livello da miseria per i paesi produttori che lo vorrebbero vedere almeno a 70-80 dollari, ma non gliela fa proprio. E poi Milano più 1,4%, il Mibtel più 1,6% S&P Mib, meglio quindi di quasi un punto percentuale Milano rispetto alle altre borse europee. I motivi si chiamano Eni, che pesa molto sul listino, più 3,2, ma anche Unicredit più 2,4, Fondiaria più 2,5, Intesa più 2,4, Finmeccanica più 2,2, Alleanza più 2,1, ma soprattutto si chiamano Tenaris più 4%, Generali più 5,4 e Prismian più 10,7%. E allora ne parliamo come sempre con i colleghi di Radio Corp, il Sole 24 Ore, Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Prismian. Sì, Prismian oggi si è riscattata sin dalle prime battute, i titoli hanno iniziato a volare beneficiando di una serie di motivazioni. Innanzitutto ieri sono stati resi noti alcuni dei dettagli del piano, che ovviamente dovrà essere ancora varato, ma del cosiddetto piano Obama, e praticamente pare che 11 miliardi di dollari ovviamente siano dedicati al settore dove opera la stessa Prismian, che peraltro è molto presente negli Stati Uniti, quindi anche una nota di JP Morgan ha messo in evidenza proprio questo aspetto. 11 miliardi ovviamente da spendere nell'arco di 4 anni e che saranno investiti nelle reti e nella trasmissione di energia ad alta tensione, ma questo ha dato in là una serie di acquisti, peraltro comunque incoraggiati anche da una vera e propria raffica di report positivi da Goldman Sachs, che peraltro è azionista della società, ad Equitas e altre appunto società di intermediazione. Ecco, hai fatto bene a ricordare, perché insomma qua il lupo perde il pelo ma non il vizio. Goldman Sachs dà un giudizio sul titolo che sarà assolutamente corretto, ci mancherebbe, il piano di Obama c'è, un Prismian leader negli Stati Uniti proprio nelle reti di trasmissione e in questo settore per l'energia ad alta tensione, però insomma, se tu hai una quota significativa di una società, fa un po' specie vedere che dai anche un giudizio su questa società. Lo dico nel caso di Goldman Sachs, che ha consigliato un compra, e grazie. No, visto che ce l'hai tu la società, me la fai anche comprare. È lo stesso principio che abbiamo visto anche in quest'ultima crisi finanziaria. Ripeto, le banche d'affari, questo vizio di non chiarire il conflitto di interessi, di non star zitte quando sono anche proprietarie, non lo vogliono perdere. Ma vabbè, è una battaglia forse persa, ma noi continuiamo a farla. Andiamo avanti sui titoli. Invece, bene, alcuni in recupero, alcuni bancari, Unicredito e Intesa. Dicevamo più in sofferenza oggi, invece, due bancari come il Monte dei Paschi e la Banca Popolare di Milano, meno 2,4% entrambi. Sì, infatti, praticamente oggi a Piazza Affari i bancari si sono mossi, c'è stata una seduta a doppia faccia. Sono andate bene Unicredit e Intesa, probabilmente perché sono state quelle che erano maggiormente colpite dalle vendite nei giorni scorsi, soprattutto Unicredit. Ricordiamo che ha accusato una delle peggiori performance, essendo più legata poi all'andamento anche dei titoli europei. Oggi più 2,4 come hai detto, più peraltro nel corso della seduta era arrivata a guadagnare anche molto di più, soprattutto dopo la notizia che lo Stato americano, il Tesoro, direttamente è intervenuto per salvare tanto Citi che la stessa Bank of America. Invece le altre banche sono rimaste maggiormente al palo, del resto continuano a circolare diciamo delle note e dei giudizi più cauti su altri istituti. Ancora sui titoli, oggi abbiamo visto un buon recupero del settore energetico in generale, anche se il petrolio non è che fosse salito molto, ma insomma Eni diciamo più 3,2, Enel più 0,8, altri titoli legati al settore sono tutti abbastanza positivi. Così un po' di speculazione sul petrolio, Eleonora? Esatto, probabilmente sì, anzi proprio in questo momento il WTI sta perdendo oltre il 2%, si attesta a $34,60, quindi è in calo, ma nonostante questo oggi c'è stato proprio un riassetto settoriale verso il comparto dell'energia. Anche a livello europeo il sottoindice dei titoli petroliferi ha messo a segno una delle migliori performance con un progresso del 2,6%, quindi anche a Piazza Affari è andata bene Eni, Saipem, la stessa Tenaris, che comunque è legata al comparto del petrolio. Allora, vediamo i titoli più sottili. Banco di Sardegna più 7%, non so se vi sia un motivo particolare in più. Snia invece cede due controllate e guadagna 6,5%. Esatto, oggi c'era grande attenzione, c'è stato anche un risveglio dei volumi per Snia all'indomani della notizia di sciogliere anticipatamente e mettere in liquidazione le controllate Caffaro e Caffaro Chimica, in quanto che appunto la decisione è stata presa dopo che è stato reso noto che lo scorso 15 dicembre il patrimonio netto della stessa Caffaro Chimica era negativo per oltre 10 milioni di euro e quindi conseguentemente anche quello poi di Caffaro era negativo in verità per 22,4 milioni di euro. Poi l'impatto di questa decisione sui conti di Snia non è ancora noto e verrà analizzato dal prossimo consiglio di amministrazione, ma a quanto pare il mercato sembra già scontare un effetto assolutamente positivo. Ancora sui titoli, i migliori e i peggiori ve li abbiamo già dati. Abbiamo visto anche, così completo la lista, inflessione di nuovo la Fiat. Lì c'è, oltre che il ragionamento sul settore europeo, c'è l'ipotesi Moody's che declassa il debito Fiat. Fiat ha perso il 4,1% a 4,71 euro. Dicevo, titoli delle costruzioni, Buzzi Unici meno 3,70% oggi. UbiBank, l'altra banca che ha sofferto, meno 2,1%, Geox meno 1,7%, Luxottica meno 1,5% come l'Espresso, Pirelli ha perso l'1,3% come Bulgari, e hanno guadagnato invece, oltre ai titoli già citati, Mediobanca più 1,6%, Atlantia più 1,3%, Terna più 0,9% e Mediaset più 0,6%. Unicredito e Intesa si sono mossi in maniera abbastanza diversa dal resto del settore, Eleonora. Sì, appunto, Unicredit è una banca che in genere tende a seguire un po' la performance delle concorrenti tedesche e delle concorrenti europee. Oggi c'è stata attenzione ad alcune banche a livello europeo, Société Générale in Francia è andata molto bene e anche a Francoforte si sono riscattati alcuni titoli, nonostante Commerzbank abbia continuato a perdere terreno, meno 9,89% sul finale. D'altra parte nei giorni scorsi avevano tentato il rimbalzo. Unicredit comunque festeggia anche il fatto che in Austria venga appunto chiusa la controllata Bank Medici, che ricordiamo è partecipata da Unicredit, ma soprattutto era esposta nei confronti di Madoff, e quindi il mercato ha appunto accolto positivamente questa notizia. E dopo le informazioni per chi è in viaggio parleremo proprio del piano di interventi in America e soprattutto dei conti americani, perché oggi c'è stata la trimestrale della Bank of America, quella di Citigroup, che dentro però non ha tenuto conto del rosso, dei mattoni, delle pietre che gli porterà l'aver acquisito Merrill Lynch, insomma un insieme di dati non da poco, con già ieri JP Morgan Chase e i suoi conti, tant'è che appunto si inizia a ragionare su un nuovo piano di interventi. Ne parliamo tra un minuto, grazie intanto e buon fine settimana a tutti i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore, quindi anche Eleonora Micheli. minuti. Allora, si diceva dei conti delle banche americane, rosso da 1,8 miliardi per la Bank of America, il primo dal 1991, un rosso però inferiore alle attese, c'era chi stimava addirittura 3,6 miliardi di dollari. La Bank of America ha anche ricevuto 20 miliardi di dollari dal Tesoro per supportare l'assorbimento di Merrill Lynch. Merrill Lynch porterà delle belle zavorre alla Bank of America, perché praticamente è stata una delle banche più colpite da questa crisi, mentre Bank of America è una delle banche che meglio aveva retto all'impatto della crisi, nonostante diciamo, la capitalizzazione si sia ridotta di un terzo. Altra vicenda, Citigroup, che ormai si divide in due sezioni distinte, Universal Banking da una parte, brokeraggio dall'altra, 8 miliardi 300 milioni di perdite. Ieri JP Morgan Chase, seconda maggior banca americana per capitalizzazione, ha visto crollare gli utili del 76% e il risultato è migliore delle previsioni. Buona notizia dall'America invece per quello che riguarda l'inflazione, o perlomeno non brutta. L'inflazione nel 2008 in America ha fatto più 0,1%, mentre che è il dato più basso nella crescita dei prezzi al consumo dal 1954, e a dicembre è calata dello 0,7%. Ultimo dato, produzione industriale meno 2% a dicembre. Li tiene tutti quanti assieme Mario Platero in collegamento con noi da New York. Buonasera Mario. Buonasera, beh, direi le crisi parallele, non potevi esprimerle meglio, da una parte quella economica, dall'altra quella bancaria. Il problema è che non usciremo dalla crisi economica se non riusciremo a stabilizzare il settore finanziario, e purtroppo il settore finanziario continua a mostrare pericolosi segnali di sbandamento. Insomma, queste perdite dopo l'infusione di capitale, dopo le concessioni di liquidità, dopo le garanzie concesse dal governo americano, beh, queste perdite di Citi colossali, parliamo appunto comunque di 8 miliardi di dollari, cifre che avrebbero fatto venire i capelli bianchi in altri tempi, o che ormai ci sembrano purtroppo quasi normali, beh, non vanno. È chiaro che la situazione è complessa. Ho visto ieri Paul Volcker in un piccolo convegno e gli ho chiesto proprio, insomma, ma come la vede questa situazione finanziaria? E devo dire, uno dei suoi straordinari punti di forza è che un uomo senza peli sulla lingua ha detto: ma it's a mess, cioè, scusate il termine, ma insomma è un po' un casino, non se ne esce, non si riesce a capire come ne usciamo. Abbiamo capito perché Bank of America ha chiesto ulteriori fondi al governo americano, perché si è trovata in pancia una perdita di 15 miliardi di dollari di Merrill Lynch, che aveva comprato con forti pressioni, incoraggiamenti, preghiere da parte del Tesoro americano, da parte di Tim Geithner, presidente della Fed di New York, dello stesso Bernanke, quando ci fu il post-crisi Lehman. Proprio in quel weekend di fuoco si abbandonò Lehman e Bank of America decise di acquistare Merrill Lynch proprio per togliere un altro possibile bubone dal mercato. Beh, Bank of America oggi dice: sono rimasto un po' col cerino in mano, aiutatemi. Bank of America, ricordiamolo, tra l'altro con JP Morgan era una delle più solide, è vero, come ricordavi tu, che JP Morgan ha perso, ha avuto una diminuzione degli utili del 70%, ma di questi tempi chi può parlare di diminuzione di profitti invece che di perdite secche? Direi che così viaggia di lusso, come si sarebbe detto, certo, in altri tempi. Ecco, questo è un po' il quadro sul fronte finanziario, si cerca di trovare il modo per stabilizzare, l'emergenza resta forte. Ormai non ci sono altri strumenti rispetto a quelli che già sono stati usati, conta molto la fiducia, a questo punto Obama farà un discorso fra poco proprio sull'economia, fra pochi giorni diventerà presidente, si apre una nuova era, ecco, la speranza di molti è che ci sia un po' di iniezione di fiducia. Sul fronte economico, inflazione sotto controllo per ora. Il dato che conta è questa diminuzione del 2% della produzione industriale, insomma sappiamo ormai che siamo nel mezzo, nel pieno di questa recessione, l'abbiamo vista con i dati sulla disoccupazione, 2 milioni di disoccupati in 2 mesi, e quindi purtroppo non è neanche quello un dato a sorpresa. Il fatto nuovo però, ecco, devo dirlo, è quello un po' più preoccupante, è che ci si è resi conto che quella che doveva essere una pagina archiviata, e cioè una stabilizzazione, non che ci fossero speranze straordinarie di una ripresa, ma la stabilizzazione di questo settore bancario che sembrava essere acquisita, su cui poi si doveva costruire la ripresa economica, aiutando il settore dell'auto, facendo progetti infrastrutturali e così via, ebbene ancora non c'è. Oggi il mercato non ha reagito male, ovviamente aveva già venduto molto sulla notizia, però quei 1000 punti che ha perso nelle ultime settimane e negli ultimi, diciamo, 10 giorni sono proprio dovuti, indice Dow Jones voglio dire, sì, sono proprio dovuti al fatto che ci si è resi conto che siamo ancora a metà del guado. Ieri ho visto anche Tommaso Padoa-Schioppa, che è stato coautore con Paul Volcker di uno studio che è stato presentato. Bella serata hai fatto ieri. No, dico, come regolamentare il sistema. Mattinata, devo dire, sì, comunque la mattinata è partita. Allegria. E lui dice che la crisi resta acuta, secondo lui. Se lo dice Tommaso Padoa-Schioppa, ci crediamo, qualche elemento l'avevamo avuto anche noi. E Mario, la cosa interessante è, sarà poi capire, ma adesso non abbiamo lo spazio, poi il 20, vi anticipo già che Radio 24 trasmetterà in diretta il discorso di investitura, oltre che tutto l'avvicinamento dalla Casa Bianca a Memorial Hill, discorso di investitura di Barack Obama, con poi un commento tuo in chiusura. Ma dicevo, sarà interessante capire, Mario, se poi tutto questo sforzo che a spanne ha raggiunto i 2.000-2.400 miliardi di dollari tra piano Paulson, secondo piano Fed, piano Obama, quante risorse drenerà alle politiche che Obama voleva fare e aveva promesso in campagna elettorale. Penso ai 30 milioni di americani senza assicurazione sanitaria, penso a tutta una politica più a favore dei ceti medio-bassi, perché insomma anche l'America non è che possa imbarcare debito come se nulla fosse. Ma guarda, in due parole ti posso dire che Rahm Emanuel, che è il capo di gabinetto di Obama, ha detto: le priorità oggi sono tre: lavoro, lavoro, lavoro. Quindi restituire posti di lavoro, far ripartire l'economia. Purtroppo per la sanità, per altri programmi sociali che Obama aveva promesso, dovranno aspettare, ma l'importante è salvare la nave prima che affondi. Grazie, buon fine settimana anche a Mario Paterno in collegamento con noi da New York. Tra l'altro ricordo che lunedì, Martin Luther King Day, la borsa di Wall Street sarà chiusa, se non ricordo male, lunedì prossimo. Grazie a Mario Paterno. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, e ragioneremo su un tema, la notizia principale, ossia mi riferisco alla riunione che c'è stata tra tutti i ministri all'industria, allo sviluppo economico, secondo come si chiamino, in Europa, per avere iniziative comuni sul fronte del settore auto, perlomeno coordinate più che comuni, e anche avere invece una posizione, quella sì, comune nei confronti dell'America, chiedendo all'America che con un insieme di incentivi, il pacchetto auto in America vale 14 miliardi, non crea una concorrenza di fatto sleale, scorretta, un aiuto di Stato all'intero settore. A chi si fosse appena messo in collegamento, ricordo che oggi il petrolio, dopo un'apertura in rialzo, è sceso anche sotto quota 35 a 34 dollari al barile. Domani attesa sul fronte dell'energia per il vertice a Mosca tra i vari paesi europei che sono importatori di gas russo, i vertici di Gazprom, i vertici di Mosca e di Kiev. Altra notizia positiva riguarda oggi invece l'Euribor, è sceso al 2,45% al minimo dal dicembre 2005, in questo modo si sta allineando anche alla decisione della Banca Centrale Europea ieri di tagliare ulteriormente il costo del denaro. Ancora, chi si fosse premesso in collegamento, ricordo che le borse hanno interrotto una serie, sette se non ricordo male, delle sedute negative, hanno chiuso in positivo. Tra le migliori oggi Piazza Affari, che ha guadagnato l'1,4% sul Mibtel e l'1,6% sull'S&P MIB. Ancora, per quello che riguarda gli indici, Francoforte più 0,7 come Parigi, Londra più 0,6. L'America adesso però ha imboccato la strada del ribasso, era positiva finché non hanno chiuso le borse europee, fino a quel momento era positiva, adesso perde mezzo punto percentuale il Dow Jones e anche il Nasdaq. Ricordo che lunedì non sarà aperta Wall Street e quindi poi se ne riparlerà per quello che riguarda l'America martedì. Allora, alcuni aggiornamenti, quindi le notizie in breve. L'agenzia di rating Moody's non si attende di modificare il voto sul debito italiano, sul rating dell'Italia, dopo che un voto invariato lo aveva già confermato Standard & Poor's martedì scorso a livello di A+, con un outlook, con una prospettiva stabile. Nonostante il calo del prezzo del petrolio, resta in crisi profonda il settore del trasporto aereo, con le compagnie europee che nel 2009 registreranno un passivo da $1 miliardo, ossia 10 volte le perdite registrate nel 2008. Queste stime le ha diffuse oggi la IATA, che è l'Associazione Mondiale delle Compagnie Aeree, e per l'amministratore delegato della IATA, nonché direttore generale Giovanni Bisignani, queste cifre dicono chiaramente che l'intero settore è in crisi profonda. Adesso le altre notizie. Si parlava molto degli incentivi alla rottamazione. Allora iniziamo con ascoltare che cosa ha detto in Europa, mi riferisco agli incentivi, chiaramente che cosa ha dichiarato il ministro alle attività produttive Claudio Scajola al termine della riunione dei 27 ministri europei dell'industria. Scajola, in sostanza, dopo aver ricordato che l'obiettivo di questo incontro, del coordinamento, è anche di non soccombere alla politica di aiuti americani, che oggettivamente è enorme rispetto a quelle europee, ha detto che per quello che riguarda l'Italia, insomma, gli incentivi sono scaduti il 31 dicembre. Il governo sta ragionando e valutando eventuali nuove misure. Noi stiamo valutando proprio in questi giorni un intervento di 200 milioni di euro sulla innovazione, sulla mobilità sostenibile, che con il contributo delle imprese che hanno partecipato al bando muove un investimento complessivo di 600 milioni di euro nel settore dell'innovazione. Quindi è un nostro intervento. Sulla parte relativa, se questa è la sua domanda, al rinnovo del parco macchine collegato alle emissioni, che è scaduto il 31 dicembre di questo mese, noi abbiamo sostenuto che vogliamo muovervi in questa armonizzazione, quindi vedremo con l'Europa quali saranno gli strumenti ritenuti compatibili fra paese e paese. Dunque, restiamo sul tema delle iniziative di politica economica europea, ma allargandolo, perché oggi, come dicevamo, è arrivato un via libera agli incentivi europei alla rottamazione delle auto più inquinanti da parte dei vari paesi, anche se devono essere coordinati. Anche altre misure di carattere fiscale sono state oggi stabilite dai ministri europei dell'industria, che però hanno chiesto anche subito un dialogo con l'amministrazione Obama per evitare, in sostanza, che si crea una concorrenza più o meno sleale, visti gli aiuti massicci dell'industria americana all'auto. In aggiunta, la Banca Europea degli Investimenti, che sta funzionando come vero braccio finanziario di Bruxelles, si è detta disponibile a potenziare i finanziamenti al settore auto. Io ricordo che la Banca Europea degli Investimenti, che ha già stanziato complessivamente 15 miliardi di euro a favore delle imprese in generale più colpite dalla crisi, ebbene, di questi 15 miliardi, 4 miliardi sono per il settore auto e in particolar modo per le case automobilistiche, che decideranno di investire in progetti verdi. Allora, da qui partiamo per capire se sia questo, quello di oggi, il primo segnale di un tentativo di coordinamento europeo, che per adesso non c'è stato, sulle politiche per uscire dalla crisi, e anche di un tema un po' più in prospettiva, ossia se non ci sia una reazione quanto a piani di aiuto, tassi di interesse, incentivi, eccessiva, un eccesso di reazione rispetto a una crisi che, per quanto dura, pesante, insomma, non è la seconda guerra mondiale. Allora, da un lato il nostro ospite, il direttore del centro di ricerche CEPS di Bruxelles, Daniel Gross, buonasera. Buonasera. Il CEPS è il centro per gli studi sulle politiche europee, Center for European Policy Studies, e poi dall'altro lato con il dottor Salvatore Bragantini, editorialista del Corriere della Sera, ex commissario consul. Buonasera anche a lei, Bragantini. Buonasera a voi. L'autore dell'articolo che io citavo. Partiamo dal primo punto. Bragantini, le reazioni europee, al di là dell'iniziativa di oggi, sono sembrate molto molto sparse, in ordine sparso, a partire proprio dagli interventi sul mondo bancario. C'è chi ha detto: questa è la dimostrazione che l'Europa è una somma di nazioni e che poi, quando la situazione si fa dura, iniziano anche a farsi concorrenza tra di loro. Io penso che certamente fino ad ora è mancata una vera risposta concertata, ma mi sembra che il grado di concerto stia aumentando, quindi io sono convinto che forse con un certo ritardo, però il continente europeo, l'Unione Europea, stanno prendendo coscienza del fatto che le politiche nelle quali ognuno danneggia il proprio vicino alla fine sono politiche stupide che non portano da nessuna parte. Quindi è vero che non c'è stata fino ad ora una risposta unitaria, ma mi sembra che stia aumentando, diciamo così, il grado di unitarietà delle risposte europee. Daniel Gross, anche per lei la stessa domanda. Dall'osservatorio di Bruxelles abbiamo visto in questi mesi una Germania mettersi di traverso a qualunque iniziativa complessiva europea, fondi e soldi europei, che invece era più caldeggiata dalla Francia e anche in parte dall'Italia. La Germania vuole fare da sé, salvare i suoi pezzi, diciamo, o aiutare i suoi pezzi di sistema produttivo. Certo, l'iniziativa auto è un'iniziativa che in qualche modo segna una differenza, forse una piccola rottura, ma lei, anche lei, così ottimista, cioè che lentamente si arriverà a politiche comuni europee? Io vedrei piuttosto il contrario. Bene. Almeno per quanto riguarda la crisi bancaria, c'era un momento al culmine della crisi in cui i governi erano disposti ad agire insieme. Il problema è che quando si decide una grande impresa, poi tutti sono d'accordo sulle grandi linee, vanno a casa e poi a casa si confrontano con interessi locali, con i loro anche parlamenti locali, nazionali, e poi alla fine ognuno fa una cosa anche un po' diversa da quella che ha promesso quando è stato insieme al vertice con gli altri capi di Stato. E in questo senso già sul settore bancario non ha funzionato molto bene. Sul settore auto, sin dall'inizio praticamente si è detto: facciamo tutti quanti qualcosa, ma lo fa chi vuole praticamente proteggere la sua industria, e questo non mi sembra veramente il modo di procedere. Soprattutto visto che nel settore bancario c'era un argomento economico molto forte di fare qualcosa insieme, perché c'è un mercato finanziario veramente integrato, e una banca fallisce, tutte le altre ne soffrono. Mentre la stessa cosa non si può dire nel settore automobilistico, soprattutto se si guarda al fatto che questo settore ha fatto molti profitti, è andato molto bene negli ultimi anni, e adesso arriva qualche anno più difficile, era già da prevedere prima. Allora, i numeri e le proporzioni, perché in America, perché l'America è l'epicentro di questa crisi finanziaria e anche economica, però a ottobre hanno varato il piano Paulson, 750 miliardi di dollari per comprare dalle banche i titoli spazzatura, e poi altri 150 miliardi in 10 anni per ridurre le tasse del ceto medio. Un altro piano, poi la Federal Reserve lo annuncia a fine novembre, 800 miliardi, quindi siamo a 1.600. Si farà carico di prodotti del credito strutturato legati ai prezzi immobiliari e poi metterà a disposizione un programma da 200 miliardi a supporto dei prestiti dei consumatori e delle piccole imprese. Infine, la notizia di ieri, il presidente eletto, tra pochissimo presidente effettivo, Barack Obama, e la Camera dei rappresentanti raggiungono un accordo per un piano di rilancio da 825 miliardi, tra cui sgravi fiscali per 275 miliardi in due anni e 550 miliardi di dollari di spese. Ora, fermo restando che alcuni sono soldi che escono, altri sono soldi che non entrano, ma se sommiamo questi tre piani in America siamo arrivati a qualcosa come 2.300 miliardi di valore di questi piani, di dollari. In Germania 50 più 30 miliardi in due tranche diverse, siamo a 80 miliardi, la Francia 26 miliardi, l'Italia ha fatto molto meno ma ha un problema di deficit, solo 5 miliardi. Dottor Bragantini, lei oggi si chiede sul Corriere della Sera, non è che stiamo dispiegando un armamento, un armamentario troppo imponente per questa crisi, perché? Vede, io ho un dubbio, o tutte queste risorse sono giuste o sono troppe. Se tutte queste risorse sono giuste, se quindi questa è una catastrofe di dimensioni tali da portare agli esborsi giganteschi che lei ha detto e che probabilmente porteranno fra un anno il debito pubblico degli Stati Uniti al medesimo livello che aveva all'uscita della guerra mondiale, allora se questo è vero, allora se tutte queste risorse servono, allora a mio avviso si devono fare dei cambiamenti giganteschi nel modo di funzionare delle nostre economie, cambiamenti che non vedo all'orizzonte perché sento parlare di cose interessanti e condivisibili ma che non sono cambiamenti, come si dice, epocali. Se invece è giusto fare così, quindi è giusto fare dei cambiamenti, come si dice, al margine, allora stiamo esagerando. Io non so se stiamo esagerando o no, però mi pongo il dubbio. Bragantini, se ho ben capito, lei dice se tutti questi soldi e questo indebitamento, appunto il fatto che l'America probabilmente tornerà a un livello di debito che non vedeva dalla seconda guerra mondiale, io aggiungo i tassi di interesse in Gran Bretagna sono i più bassi da 400 anni quasi, da sempre, da quando esiste la Bank of England, in Europa sono i più bassi da sempre e da oltre un secolo anche presi i singoli stati, in America sono i più bassi da sempre. Allora se qui siamo di fronte a una situazione che non si vedeva dalla seconda guerra mondiale, occorre che cambino anche le istituzioni. Se invece così non è, si rischia di imbarcare troppo debito e di rendere la liquidità troppo facile. Cioè, qual è il suo timore? Esattamente questo. Io non vedo coerenza fra la dimensione gigantesca dello sforzo che si sta programmando, ancora non è stato tutto diciamo dispiegato, ma presto lo sarà, non vedo coerenza, dicevo, fra la dimensione di questo sforzo e i cambiamenti istituzionali dei quali si parla, che sono minimi. Cioè, se il pericolo è quello che ci casca addosso una catastrofe come una guerra mondiale, forse non basta dire che unifichiamo la Securities and Exchange Commission con la CTF. Sì, ecco, per fare un esempio. Cioè, l'elefante degli interventi da centinaia di miliardi, migliaia a questo punto di miliardi di dollari, sta partorendo un topolino sul fronte delle riforme istituzionali. Cioè, lei che cosa ha in mente? Poi girerò la domanda chiaramente anche a Daniel Gross, Bragantini. Una nuova Bretton Woods, una nuova Yalta, un nuovo New Deal? Che deve succedere? Dunque, io credo che prima di tutto si tratti di capire quali dei due casi si applica. Se è vero che siamo davanti a una catastrofe così epocale, allora io credo che si debba stabilire un nuovo ordine economico mondiale, scusatemi lo slogan un pochino, come dire, da bar sport, e non basti appunto cambiamenti marginali. Oppure forse stiamo esagerando, forse la verità è in mezzo, come a volte succede. Io non ho la risposta, però credo che sia giusto porsi la domanda. Sì, potremmo anche dire delle due l'una, però, perché o è troppo arrivare a livelli di tassi di interesse che non si sono mai visti neanche negli anni 70, in pieno shock petrolifero, neanche negli anni 40, insomma, e interventi di questa entità, oppure fanno bene, ma allora non si può mantenere le autorità di controllo nazionali, la SEC, la Consob e via così, non si possono lasciare le banche accollarsi e imbarcare tutti questi rischi, occorre regolare anche i rapporti di scambio tra beni e servizi su base mondiale. Vorrei sentire cosa ne pensa Daniel Gross, perché da un punto di vista, diciamo, dell'analisi, la provocazione regge tutta, a mio avviso, Daniel Gross. Si sta rischiando di aprire troppo i cordoni, perché la crisi poi è una crisi pesante, dura, ma è pur sempre una crisi ciclica, magari metà 2010 è già finita, magari inizio 2010, oppure è una crisi epocale, storica, e allora bisogna riformare l'ordine mondiale? Se siamo sinceri, nessuno lo sa con certezza. Se si prende le previsioni, anche quelle ancora pubblicate oggi dalla Banca d'Italia, sarebbe una crisi sì, ma in fondo una crisi ciclica che fra un anno o due si sarebbe già chiusa. Per cui penso che al momento, soprattutto nei paesi anglosassoni, quello che regge è in certo senso la prudenza. Gli uomini politici dicono: non sappiamo ancora se è veramente la catastrofe tipo Grande Depressione, ma facciamo di tutto per prepararci a questa eventualità. Il problema è che cosa si fa se non è così. Si può fare marcia indietro rapidamente? Penso che questo sia possibile per le banche centrali, ma per la politica fiscale sarà molto più difficile. Per cui penso in Europa le autorità fiscali hanno ragione a essere più cauti. L'autorità monetaria, la BCE, è sempre lì a poter reagire. Per cui sul versante della politica monetaria non vedo tanto problemi in Europa. Cioè, se ho ben capito, il professor Gross le dice: se ci si dovesse accorgere che la crisi è pesante ma non è epocale, le banche centrali fanno presto anche a rialzare i tassi. È molto più difficile per i governi che hanno già speso soldi pubblici, hanno già imbarcato debito, ridurre il debito, perché lì ci vuole un'operazione molto più lenta. Il debito per un po' te lo tieni. Le chiedo, siccome dalle crisi, diciamo da un po' di giorni, di settimane, nascono anche opportunità, ridefinizioni, selezioni anche dei più meritevoli, questa crisi secondo lei potrebbe portare poi a livello politico a una nuova definizione di Europa, un'Europa non fatta solo di moneta e di leva sulla moneta, quindi non solo fatta di euro e di banca centrale europea? Avrebbe potuto, se si avesse colto l'occasione, che era la crisi nella fase più acuta in settembre o ottobre dell'anno scorso. A quell'epoca, se i tedeschi non l'avessero bloccato, si sarebbe potuto pensare a un fondo europeo per garantire le banche, e l'Europa avrebbe potuto fare un passo in avanti molto importante. Questo non è avvenuto, e in questo senso penso purtroppo che la crisi porterà dall'Europa a fare dei passi indietro. Così è stato tra l'altro anche durante o dopo la prima crisi petrolifera, dove diversi paesi europei hanno scelto delle strade diverse. La Germania è quella di combattere l'inflazione, mentre gli altri hanno lasciato andare. E ci sono voluti 10-15 anni per poterci portare insieme di nuovo. Per cui per l'Europa penso purtroppo questa occasione è stata perduta. Questo vale anche sull'ipotesi di un eventuale piano di investimenti infrastrutturali europeo, no? I bond europei di cui si ragionava qualche mese fa? Di questo si è parlato ogni volta che c'è una recessione in Europa, ogni volta si ripropone lo stesso schema. Ogni volta il problema vero è quello che questi piani sono sempre gli stessi, sono piani che sono decennali, che coinvolgono l'Europa poco, perché in genere sono bilaterali in realtà. La politica lì c'entra poco. Non penso che questa sia veramente una risposta europea a questa crisi. E va bene, vedremo, perché insomma, interessante lo spunto. Dispiace vedere che appunto l'Europa può aver perso un'occasione magari per avere una politica economica comune, non solo una politica monetaria, cioè di tassi e di valute comune, ma poi ognuno si muove per i fatti suoi. Segnaliamo però che, come diceva anche Bragantini, questo passo di oggi sul settore auto forse è un primo passo per arrivare almeno a non farsi concorrenza in casa e a fare fronte comune nei confronti di un'America che sta, come abbiamo ricordato, spendendo migliaia di dollari per aiutare di fatto statalmente la sua economia. Grazie a Salvatore Bragantini, grazie a Daniel Gross, ai nostri ospiti, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni un ringraziamento a Barbara Bianchi, Gaia Romani e Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. A voi tutti in ascolto un augurio di buon fine settimana.